Con Massimiliano Cafaro, uno dei curatori dell'evento La Pantera siamo noi a Roma, città dell'altra economia, sabato 18 gennaio 2020. Massimiliano, ben trovato. Ciao, buonasera. Ci racconti di questa iniziativa? L'iniziativa parte nel trentennale dell'occupazione dell'università da parte del movimento degli studenti La Pantera, che occupò più di 150 facoltà in tutta Italia all'epoca, tutte le facoltà, tutti gli studenti uniti per protestare contro il disegno di riforma dell'università, diciamo, Ruberti. Questi 2 giorni sono stati organizzati appunto per il trentennale. Oggi, mentre parliamo, si sta ancora, diciamo, oggi 17, si sta svolgendo un convegno all'università, la Sapienza, prettamente storico, con l'obiettivo di inquadrare il movimento, diciamo, della Pantera all'interno, insomma, dei grandi movimenti, diciamo, del Novecento, forse l'ultimo grande movimento del Novecento. Sabato 18, alla Città dell'Altra Economia, invece sarà un forum dove ci sarà una presentazione di libri, diciamo, sulla Pantera, su Roma dopo la Pantera, sugli effetti, diciamo, della Pantera sulla società. Si vedranno dei video, ci saranno dei dibattiti, parteciperanno i ragazzi di Friday for Future, parteciperanno anche i ragazzi della rivista Scomodo, quindi ci sarà tutta la giornata, si mangia, tutta la giornata da passare qui, rientrare un po' per immergersi, diciamo, nell'atmosfera della Pantera con i documenti che sono stati prodotti all'epoca. Com'era nata l'esigenza e poi come avete pensato di muovervi? L'esigenza è nata, diciamo, quasi per caso, con alcuni, diciamo, compagni della Pantera. Ci eravamo visti e avevamo riflettuto che a gennaio sarebbero stati 30 anni. Volevamo a questo punto fare un'iniziativa partendo da un concerto che ci fu all'Università di Roma, alla Facoltà di Architettura, che noi chiamammo San Romolo, perché era il periodo del Festival di Sanremo, perché l'occupazione, diciamo, il centro dell'occupazione era gennaio, febbraio, marzo. Quindi organizzato un concerto alla Facoltà di Architettura facendo suonare tutti i gruppi degli studenti di tutte le facoltà, e quindi era, diciamo, un contro San Romolo. La cosa bella è che vennero gli Schiantos da Bologna ad aprire il concerto e poi cominciò il festival. Partendo da questa idea, poi si è allargata, visto che anche alcuni di lettere avevano avuto un po' la stessa idea, e tramite una chat abbiamo, diciamo, un po' ripescato tutti i partecipanti con i contatti, insomma, che ancora avevamo. Poi si è strutturata, insomma, su questi 2 momenti, convegno storico e un forum, diciamo, un po' più allargato per tutta la giornata, con festa finale, poi concerto dal vivo per ripetere un po' in piccolo il concerto che abbiamo fatto alla Facoltà di Architettura 30 anni fa, e poi, insomma, festa. Suoneranno pure gli assalti frontali, che furono un po' la colonna sonora, almeno a Roma, ma anche in tutta Italia, diciamo, della Pantera. Un bilancio di quella stagione. In chiaroscuro, insomma, più scuro che chiaro, noi facciamo una riflessione su questo, cercando anche di lanciare un appello al governo per rimettere il focus un po' sull'istruzione, sull'università, sulla ricerca, visto che facendo, diciamo, 2 conti, oggi al convegno storico, diciamo, se ne è parlato, i finanziamenti che c'erano per l'istruzione nel 1990 sono molto maggiori di quelli che oggi troviamo 30 anni dopo, dedicati nei capitoli di bilancio della scuola, dell'università e della ricerca. Quindi, in realtà, l'attenzione, diciamo, su un cardine della società, diciamo, che è l'istruzione, che è la formazione, è andata via via scemando. Questa occasione anche per rimettere, diciamo, un po' l'accento su quella struttura, diciamo, fondamentale per la società, e dovremmo far uscire un appello. Altro obiettivo, diciamo, principale è creare un archivio del movimento che ha alcuni documenti già all'archivio dell'IRCIFAR a Roma, Era un archivio specificamente audiovisivo, con foto, video dell'epoca, e stiamo raccogliendo, invitiamo tutti i partecipanti che abbiano materiale in questo senso di venire, di contattare anche attraverso il sito che abbiamo messo su www.lapantera.org e anche il nostro gruppo Facebook, insomma, per chiamare un po' di gente, che si chiama La Pantera compie 30 anni. Quindi per raccogliere da oggi in poi, già qualcosa abbiamo raccolto, tutto il materiale per costruire un fondo di archivio audiovisivo che andrà all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Il confronto con i movimenti oggi, tra quelli che avevi citato all'inizio, che cosa te ne è apparso? Allora, diciamo che il tema è importantissimo. Uno dei libri che verrà presentato domani affronta proprio il rapporto di quel movimento di 30 anni fa con le sfide di oggi e il rapporto, insomma, con gli studenti odierni, dove la questione ambientale, che sembra al centro, per esempio, dei ragazzi di Fridays for Future, è stata sempre una questione anche, diciamo, della Pantera, e oggi le riflessioni la riaggiornano. La riaggiornano invitando, appunto, e domani saranno presenti, ma forse anche sparso, diciamo, con un po', diciamo, dei partecipanti alla mobilitazione, diciamo, delle sardine, invitando con noi a riflettere sulla questione ambientale, che non può essere, diciamo, staccata dalla questione più generale politica e del modello, diciamo, di società in cui stiamo vivendo, un modello liberista che in realtà sembra molto contrapposto all'ambiente, al di là delle politiche di greenwashing che la produzione diciamo mette in piedi. Rispetto ai prossimi passi, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, il primo riferimento è il sito web www.lapantera.org. Un altro riferimento, un po' più snello, per lanciare le iniziative è appunto la pagina Facebook aperta, che si chiama La Pantera compie 30 anni. Poi abbiamo anche un account Instagram che si chiama Pantere 90, dove abbiamo già cominciato a mettere, diciamo, qualche materiale, visto che le riunioni sono cominciate a giugno scorso, quindi c'è, cioè, un forte anticipo proprio per permettere un dibattito più allargato. A giugno le sardine ancora non esistevano. Ricordiamo allora l'evento La Pantera siamo noi a Roma, città dell'altra economia, sabato 18 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Massimiliano Cafaro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, arrivederci.